Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 7 febbraio, buongiorno, bentornati di nuovo su Liberi Dentro e Radio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. E siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko e Lepida TV e io con voi sono Caterina Bombarda con Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutte e a tutti. Attacchiamo subito con le notizie del giorno. Oggi è la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo e quindi anche noi su Eduradio vogliamo ricordare questa giornata con questa notizia. 100 storie di bullismo, narrazione, consapevolezza, intervento, che è il nome di un progetto finanziato dalla Regione Lazio e Molise e dal Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali e realizzato dall'Istituto di Ricerca Economiche e Sociali EURES, che attraverso un complesso percorso di ricerca e analisi ha voluto fornire delle risposte efficaci per contrastare la diffusione del bullismo. Questo progetto ha coinvolto oltre 1000 ragazzi in età compresa tra i 14 e i 18 anni e indirettamente anche le loro famiglie, i loro docenti scolastici, con l'intento non soltanto di promuovere consapevolezza su che cosa sia il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, ma anche di prevenirlo e contrastarlo. Ma vediamo brevissimamente che cosa ci dicono i dati. Le ultime rilevazioni dell'Istat sul fenomeno del bullismo quantificano che più della metà dei ragazzi in età compresa tra gli 11 e i 17 anni ha subito episodi di bullismo, una percentuale che sale all'85,8% tra i ragazzi che utilizzano quotidianamente lo smartphone. Quindi per quanto riguarda il cyberbullismo ne è vittima il 22,2% dei giovani. E Caterina, senti, andiamo un attimo alle origini del termine. Che cos'è il fenomeno del bullismo? Ma naturalmente l'etimologia viene dall'inglese, da bullying, che significa utilizzare la propria forza per danneggiare un soggetto più debole. Gli atti di bullismo quindi sono costituiti da azioni vessatorie, le offese, le derisioni, le minacce, le aggressioni fisiche, ma anche le diffamazioni finalizzate a sottomettere, screditare, marginalizzare o anche soltanto escludere una persona dal gruppo amicale. E anche le forme in cui si manifesta il fenomeno del bullismo risultano in continua evoluzione, soprattutto per effetto della diffusione dei social network e dei sistemi di comunicazione digitale. Ed è per questo che si parla di cyberbullismo, perché è la stessa cosa, gli stessi atti diffamatori, però a mezzo social, con i mezzi elettronici. Ormai l'utilizzo di questi strumenti, per l'appunto elettronici, tra cui lo smartphone, il computer, YouTube, tutto ciò che possiamo diffondere in rete, è tanto diffuso da pervadere la sfera più intima delle nostre relazioni, generando fenomeni che impongono quindi al nostro legislatore un'efficace e tempestiva capacità di intervento. Ci fai qualche esempio, Caterina? Guarda, prova a pensare, non so, a immagini e contenuti video che possono essere diffusi in brevissimo tempo e visualizzati, archiviati in pochi minuti da un numero vastissimo di persone, o anche, in termini ancora più gravi, la pubblicazione di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso diretto della persona interessata, spesso a scopo punitivo, il cosiddetto revenge porn, che ha richiesto proprio l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, che è l'articolo 612 ter del codice penale. È interessante questo fenomeno perché fino a poco tempo fa non ce lo potevamo neanche immaginare, no? E questo ovviamente richiede una profonda riflessione proprio sul tema del rapporto minori e nuove tecnologie. Ma come si può intervenire per arginare questo fenomeno, secondo te? Guarda, anche questa domanda che fai è proprio in continua evoluzione, perché c'è sicuramente l'esigenza di interventi sul piano formativo e culturale allo scopo di proprio recuperare e fare luce su un deficit, cioè una mancanza di consapevolezza attualmente riscontrabile in tantissimi giovani. E non solo giovani. E anche la letteratura scientifica ha dato ampio spazio a questo tema del bullismo già quasi mezzo secolo fa. Nel 1970 Olbius, uno scienziato, aveva cercato di inquadrare in termini scientifici il bullismo, riportandolo nei comportamenti antisociali, ed è caratterizzato anche dalla mancanza di empatia e da uno scarso rispetto per le norme sociali. Senti, e quali sono le conseguenze sulle giovani vittime? Chiaramente sono molto gravi, perché le giovani vittime potrebbero vivere in futuro relazioni interpersonali con passività e tendere sempre più all'isolamento, fino ad arrivare al vero e proprio ritiro sociale. Pensiamo al caso degli Akikimori, che sono gli adolescenti e giovani adulti che decidono di isolarsi dalla vita sociale per lunghi periodi di tempo. E le vittime, oltretutto, nei casi più gravi, potrebbero sviluppare una predisposizione a mettere in atto condotte autoaggressive che potrebbero condurre anche al suicidio. Ma non è da sottovalutare anche il caso dei testimoni di bullismo, veri e propri spettatori di questi atti che possono subire delle conseguenze, in quanto sono chiamati a scegliere se agire in favore della vittima o dell'autore del reato, o fino ad arrivare a mettere in atto comportamenti omertosi, cioè che nascondono quello a cui hanno assistito. A livello psicologico, gli spettatori di questi reati possono sviluppare senso di colpa e attivare dei complessi meccanismi di difesa per far fronte a situazioni traumatiche. In sostanza, la consapevolezza degli effetti del bullismo nel breve e nel lungo periodo impone quindi un'attenzione molto vigile e un impegno costante da parte delle istituzioni, delle famiglie e della scuola per contrastare questo fenomeno e promuovere la consapevolezza necessaria che serve a scoraggiarlo. Ma ci arrestiamo un secondo, rimaniamo con una canzone. Tutta la settimana siamo con Ear Hustle, questo podcast realizzato all'interno del carcere in California, San Quentin, che produce anche podcast musicali. E la canzone che ascoltiamo oggi è The Dreamer e ci rivediamo tra pochissimo. Growing up, I was never told I could actually be a doctor or a lawyer or just happy being me. So I grew into a Kermit that had more pull than the sea. Not knowing what passing moments, I'm looking more like the streets. What are dreams if you don't have a place to sleep? No thirst for knowledge, trying to figure what to eat. And it seems like we are in a place that'll last forever. The ghetto, the broken, my life I'm trying to piece together. Poor me, or is it poor we? We rich in hard times but get managed poorly. Lordy, Lordy, can you listen closely? I'ma do something for you that no one did for me. So pay me attention and then buy into your dreams. Life's a game of chess, push pawns to some queens. You can be what you wanna be, reality belongs to you. You choose what you grow into. Who wanna be a doctor? Who wanna practice medicine? Who wanna change the world? Who wanna be the president? Who wanna see the stars? Who wanna be a genius? Dreams last forever, they can never be defeated. I cannot help it, I'm a dreamer. Change the world forever. No lie, I wanna bring the world together. And I admit I'm kinda selfish, cause I wanna be the reason. Not for the recognition, I recognize what we need. And I don't wanna fall, trying to spring change like the seasons. Consequences disrupting the system, but I ain't retreating. I'm optimistic, thinking it's a fight worth leading. I bleed the blood of a leader, I die for what I believe in. I'm just saying it's real. I encourage you to do more than just say what you feel. Let's take a stand as a man, not forming slaves in the field. And let's build each other up instead of stuck and just destroying everything that we build. Why people gotta get killed before we recognize their greatness? Why we gotta get locked in cages to start exercising patience? No lie, let's start making changes, let's start making rearrangements to our list of priorities, cause majority on different pages. Yeah. Don't fall into the trap, let your mind rise above that. Look for the signs and adapt. Take the time to master your craft. Yeah, don't fall into the trap, let your mind rise above that. Look for the signs and adapt. Take the time to master your craft. I can't help it, I'm a dreamer. I can't help it, I'm a dreamer. I can't help it, I'm a dreamer. E rieccovi, bentornati, siamo sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV e riprendiamo con le notizie del giorno. Antonella, Parlaci di come sopravvivere grazie alle piante. Caterina, praticamente è molto difficile sopravvivere in condizioni estreme, come possiamo immaginare, in condizioni in cui non abbiamo la possibilità di avere nulla di commestibile intorno a noi. Però faccio prima un passo indietro, perché questo articolo l'ho letto sulla rivista della Natura, a firma di Kathleen Walken, e che giustamente esordisce dicendo che dobbiamo dimostrare gratitudine agli uomini primitivi che hanno per primo valutato se le piante sono commestibili e quali sono le piante commestibili. Ovviamente sono stati spinti dalla necessità, dalla curiosità, ma soprattutto dal dovere di alimentarsi. E i primi a mangiare alcune piante o parti di esse magari hanno pagato la loro audacia con la pelle, con la propria vita. Altri invece hanno scoperto che alcune piante sono nutrienti, e sono buone, che quindi aiutano a sopravvivere. Successivamente poi, dopo appunto questa fase orale di comunicazione generazionale delle piante commestibili e delle parti di piante commestibili, ci sono state le prime liste di piante commestibili ovviamente, e che non soltanto diciamo rappresentavano i valori nutrizionali di una pianta, ma anche gli effetti desiderati e anche quelli letali. Certo, ci è voluto molto tempo per studiare la proprietà delle piante, ma come si possono imparare tutte queste cose? Allora Caterina, un livello sufficiente di conoscenza può essere raggiunto ovviamente attraverso lo studio, anche non uno studio particolarmente approfondito. Per esempio frequentando alcuni corsi di identificazione delle piante, studiando libri dedicati alle piante locali. Noi abbiamo un patrimonio intorno nell'Appennino che effettivamente dovremmo studiare un po' di più, portando con sé una guida sul campo di identificazione della pianta, dove appunto trovi tutte le informazioni anche durante l'escursione. E poi soprattutto qual è il problema? Quando ti trovi in una situazione d'emergenza e hai carenza di cibo, a questo punto la conoscenza delle piante diventa fondamentale. E per questo è importante padroneggiare un po', soprattutto se poi si frequentano certe zone del mondo, padroneggiare, vi dicevo, le nozioni di base relative all'identificazione delle piante commestibili attraverso un test molto particolare che si chiama il test di edibilità universale. Ricordiamo che ogni pianta è composta da più parti che possono essere sicure da mangiare o addirittura velenose, quindi una stessa pianta ha delle parti commestibili edibili, alcune no. E anche perché se sbagli a mangiare la parte della pianta ci puoi lasciare la pelle. Prova a farci un esempio di questo test universale di edibilità. Allora, prima di tutto ti parlo di una pianta nota come albero della morte, che è il tasso, Taxus baccata. Però va detto che è una pianta mortale, ma soprattutto perché c'è la presenza di alcune tossine alcaloidi. Per l'arillo rosso maturo, invece, per dire, i semi sono velenosi, ma la polpa invece è assolutamente commestibile e ricca di antiossidanti. Ricordiamoci che le parti della pianta sono frutto, noci, bacche, fiore, foglie, steli e ovviamente le radici. In alcuni casi le bacche possono essere commestibili, ma non le foglie, per esempio. Ma proviamo a immaginarci uno scenario di sopravvivenza e come si fa a capire che cosa è commestibile e cosa no. Ecco, allora prima di tutto se sei in una situazione difficile da questo punto di vista bisogna circoscrivere l'area in cui si cercano le piante perché potrebbe diventare la riserva di sopravvivenza tra l'altro. Quindi il primo principio è di mantenere lontane alcune piante, quelle che hanno linfa all'interno degli steli o foglie vitree, quelle che hanno un odore molto caratteristico e sgradevole, quelle con cui potresti pungerti, quelle che crescono in zone di decomposizione, magari ad acque stagnanti, insomma in queste zone così, e quelle che hanno anche i puntini dai colori vivaci. Per dire, anche i funghi hanno questa caratteristica, no? I funghi più belli, quelli proprio con i puntini rossi, sono quelli che invece sono i più velenosi. Poi se ci si trova all'interno di una situazione di emergenza bisognerà fare quello che vi dicevo, appunto il test di edibilità universale. Il modo migliore è sicuramente quello di determinare, come dicevo, un'area specifica, di ricordarsi di utilizzare acqua purificata. Oggi per purificare l'acqua ci sono tanti metodi, oltre alla bollitura, e fare gli esperimenti alla luce del giorno, che così non si sbaglia con le quantità di pianta che si desidera testare. È un test che, diciamo, necessita di una grande attenzione e un grande ordine. Come fare? prima di tutto dividere le parti della pianta, come avevamo detto prima. E in questo modo si sa esattamente cosa succede a quella parte della pianta, se è commestibile o meno. Ovviamente non si deve mangiare cruda la pianta, bisogna bollirla, quindi si cuoce una piccola parte della pianta, la parte selezionata, che così, cioè, ci si assicura di uccidere eventuali agenti patogeni. Per 15 minuti si fa bollire la porzione che abbiamo identificato e poi la si pone, per esempio, sulle labbra per vedere appunto la reazione del corpo a questa, diciamo, a questa pianta che abbiamo selezionata. Dopo, se tutto va bene, si può mettere sulla lingua, la si tiene per 15 minuti, dopodiché si può cominciare a masticare e a ingerire e vedere che effetto che fa sull'organismo, se crea vomito, dissenteria, dolore addominale, per esempio. Se tutto va bene, dopo 8 ore si può pensare che la pianta sia commestibile. E questo è uno dei sistemi che si usano per vedere appunto se la pianta che abbiamo trovato è edibile. Intanto vi lancio un pezzo di Sista Awa, che all'anagrafe si chiama Awafal. È una giovane musicista della scena reggae e della black music internazionale. L'avremo con noi prossimamente in una bella intervista. Canta in inglese e in italiano, è nata a Bergamo da genitori italo-senegalesi e ascoltiamoci questo bel pezzo che si chiama Baby Wrong. E poi non andate via perché dopo ci sarà come ospite Fabien Lang, volontario carcerario e presidente dell'Associazione Interculturale Universo. Ascoltiamo Awafal. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Libri Dentro du Radio. Per la pillola di oggi siamo ancora insieme a Fabian Lang, volontario all'interno del carcere di Bologna della Dozza. Parleremo insieme a lui, ancora una volta, della sua attività di volontariato all'interno del carcere, insieme alle persone detenute. Godetevi la pillola. Tutti pensano di migliorare la propria vita una volta usciti, però con quali strumenti? Con quali strumenti? Quindi il volontario diventa quasi uno strumento. Per aiutarli nell'elaborazione della vita. Molti detenuti sono persone che hanno già perso speranza. Molti detenuti, non ricevendo lettere da familiari, perché già fuori, quando è che ci mandiamo delle lettere? Una volta che uno è privato della libertà, vorrebbe ricevere delle notizie, delle comunicazioni da persone da fuori. Però purtroppo quando non ricevono nessuna comunicazione li impoverisce e li incattivisce perché si chiudono. Quando non ricevono comunicazioni, persone da fuori, quindi la presenza di un volontario, la mia presenza, che cosa porto? Porto quella boccata d'aria nuova, porto quell'orecchio in più per ascoltare, porto il dialogo intorno a quelle poche parole che possono essere utili per la nostra vita. Quante volte abbiamo parlato, cioè io ho parlato in carcere delle speranze, e tutti i detenuti tendono a dire la speranza è l'unica a morire, però il semplice fatto di considerare che la speranza va associata con un progetto li aiuta, li fa spostare da quella semplice speranza che stanno lì in attesa che qualcuno faccia qualcosa per cambiare la loro vita. Quindi parlando cerchiamo di esplorare quelle ipotesi e quelle cose che possono fare loro per cambiare la loro vita e per migliorare la loro vita. E la presenza nostra come volontari da fuori gli dà un senso di accettazione, un senso di attesa che la società li sta aspettando, quindi ci sarà ancora spazio per loro di entrare all'interno della società una volta finita la loro pena. Ecco. Adesso una piccola pausa per noi, ci ritroviamo presto dopo lo stacco musicale. Eccoci tornati dopo un breve stacco musicale, ritorniamo a parlare insieme a Fabian Lang di volontariato in carcere. Fabian, quali sono le mansioni di un volontario in carcere? Cioè il tuo impegno con le persone detenute, com'è costituito? Ok, parlare delle mansioni è una domanda molto complessa, anche perché io, come vi accennavo prima, il mio professore un giorno mi disse andiamo in carcere come finestra per aprire la possibilità di garantire o tutelare qualche diritto umano. Quindi noi siamo arrivati il pomeriggio, ci siamo entrati e ha avuto un impatto fortissimo su di me, entrare in questo posto con dei muri alti, con delle persone dentro. Io all'inizio non sapevo concretamente che cosa avrei potuto fare come volontario, ero andato per la curiosità di vedere i detenuti, di vedere che non avevano la coda e di vedere che non avevano le corna e di vedere che erano persone normali, a un certo punto più normali di molte persone che vedo fuori. Quindi lì la prima cosa che ho constatato che potevo portare in carcere era la mia persona. Il fatto che quando siamo arrivati tutti i detenuti erano curiosi, correvano, volevano sapere chi eravamo. Il fatto di portare una boccata d'aria fresca, una persona da fuori, per entrare e parlare con loro. Poi la seconda cosa che ho constatato è che molti detenuti hanno voglia di parlare con qualcuno di diverso dalle persone che sono dentro, che li avranno già ascoltato tantissime volte, quindi semplicemente essere l'orecchio che ascolta per l'ennesima volta i loro racconti è una seconda cosa importante. E poi il fatto che io sono entrato in carcere insieme al mio professore di filosofia morale, una delle cose che ho constatato andando in carcere è che effettivamente il momento del carcere è il momento in cui molti detenuti ripensano la propria vita. E se ripensano la propria vita solo con le persone che sono dentro, solo con le parole che possono venire fuori dalle persone dentro, può essere un po' limitante o può essere deviante, perché qualcuno addirittura ascolta molto la spettacolarità del crimine di qualcun altro, però portare dentro gli elementi di filosofia morale, gli elementi di tutte le grandi culture, può essere utile per il ripensamento della vita dei detenuti, perché fino ad adesso, da quando vado in carcere, non ho incontrato un detenuto che non sta pensando di migliorare la vita una volta uscito. Anche per oggi la nostra pillola di libri dentro Duradio termina qui, ma noi ci ritroviamo settimana prossima sempre insieme a Fabian Lang per parlare ancora di volontariato all'interno del carcere con le persone detenute. E rieccovi per annunciarvi i saluti di fine puntata. Oggi, che è lunedì, abbiamo Scienza in una stanza a cura di Federico Tibone con l'elettricità nascosta nelle cose, e a seguire In e Out con Massimo Altomare, che conclude per il momento la sua rubrica con l'orchestra ristretta dal carcere di Sollicciano. Scriveteci redazione liberidentro@gmail.com e come al solito un grandissimo saluto e a domani da me, che sono Caterina, Antonella Cortese, Paolo Leotti, Enea Flacco, Diana Botta. Grazie a tutte e tutti. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.